Benvenute a Lipstick Lagoon, un programma di donne per... beh, per tutti. Un'ora di chiacchiera libera di fronte a una tazza di tè o di caffè o di... uno spritz! Una cioccolata calda. Con panna, per favore. Sì, ecco, adesso cerchiamo di non divagare subito. Adesso vado a presentarvi le mie collaboratrici per questo programma, per questa nuova avventura. Partiamo da Nadine, la nostra paziente inglese. Hello to all! E poi abbiamo con noi Jessica Spiro, la viaggiatrice filosofa. E visto che una Jessica non basta, abbiamo anche Jessica Marchese, la danzatrice magica. E per ultima, ma non per ultima, Rachele Stregonese, la teatrante itinerante. E così il nostro cerchio si è concluso. Ma andiamo a spiegare un po' anche questo nome che abbiamo scelto solo perché così potevamo fare a dire a Nadine di nuovo questo nome in inglese. Sì, dai, è semplice. Lipstick Lagoon. No, Jessica Marchese, semplicissimo. Lipstick Lagoon. L'ho detto bene? Benissimo, perfetto. Dunque, Lipstick Lagoon è laguna di Rossetti. Laguna direi che è molto chiaro, la laguna è dove tutti noi viviamo e quindi è l'ambiente col quale siamo più a contatto. E Rossetto è quello che abbiamo tutti noi in borsa, sempre, no? Sì, ma non solo, perché noi donne non siamo solo un rossetto. Ma ogni rossetto, come ci spiega adesso Jessica Spiro, ogni rossetto è una sfaccettatura diversa di donna. Ogni donna porterà il rossetto che più è congeniale a lei. Insomma, questo sarà un programma del tutto improvvisato, sarà un calderone di varie cose che per le donne è una chiacchierata tra donne, come se veniste con noi al bar a bere qualcosa e ci sentiste chiacchierare. Quindi in quest'ora parleremo di viaggi, musica, di moda, shopping, attualità, insomma un po' di tutto, di quello che ci verrà in mente noi ve ne parleremo. Però adesso direi di cominciare subito a scaldarci con una canzone. Assolutamente sì, ci piace la musica. Cosa ci proponi? Ma adesso metteremo una canzone che andrà a introdurre l'argomento di cui parleremo tra poco, ma non vi svelerò nulla. Ascoltiamo. C'è una bestia che s'addormenterà ogni volta che bella come sei le sorriderai. Quel che non si può neanche immaginare e spaventa un po', ti sorprenderà come il sole ad est, quando sale su e spalanca il blu dell'immensità. Abbiamo scelto una canzone molto che lascia tutto molto nel mistero. Di cosa potremmo mai parlare quest'oggi? Di favole, della Disney, di cartoni animati? Vi parleremo di bestie, invece vi parleremo delle belle, della bellezza in maniera più generale. E cominceremo con un po' di storia, così vi annoiamo subito, ma poi vi tireremo su con altre curiosità. Cominciamo con un po' di storia del canone della bellezza, perché tutto sommato siamo tutte abituate adesso a vedere, a sentirci di dover in qualche modo migliorare il nostro aspetto fisico, che dobbiamo in qualche modo equipararci a un canone di bellezza, e non sappiamo quali sono stati gli altri canoni di bellezza nella storia. Pensiamo che siano sempre piaciute le donne come piacciono adesso, quando invece non è vero, sono cambiati molto i canoni di bellezza nella storia e si sono sviluppati sempre a seconda della storia appunto che si viveva in quel periodo e anche di come cambiava la società, di come era vista la donna e del ruolo che aveva. Poi è brutto parlare e vivere sempre di stereotipi, quindi è bello anche vedere nel tempo cosa quali erano gli stereotipi e gli stili e capire quanto è cambiato e perché come è cambiata una cosa. Esattamente, difatti se si parte dalla preistoria, se si vanno a vedere le veneri primitive della preistoria, abbiamo un viso della donna quasi neanche preso in considerazione, delle forme molto abbondanti, ecco, che adesso non si vedono. Quindi sono una donna super classica, abbiamo sbagliato epoca, ma non importa. Poi con l'evolversi dell'uomo si passa all'età antica, dove gli egiziani comunque apprezzavano delle forme, delle curve in una donna, la figura era snella ma comunque curvilinea, e amavano molto prendersi cura del corpo. Già all'epoca si usavano belletti, si usavano creme e varie tenevano molto proprio, esatto, varie cosmesi di vario genere importate soprattutto dall'Oriente. Usavano molto il bistro, che vi cito perché verrà fuori anche più avanti, per far esaltare gli occhi, è una specie di mascara da quello che ho capito, per ciglia e sopracciglia, e usavano l'ennè, che usano ancora oggi, difatti è proprio tipico andare in Egitto e farsi l'ennè, per le unghie di mani e di piedi. Amavano molto anche truccarsi, sottolineavano occhi, come abbiamo già detto, le vene delle tempie e il seno. Per le vene delle tempie? Sì, non so perché. Molto sexy direi, ragazzi. Comunque, se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, non sarebbe cambiata la faccia della terra. Ok, sì, scusa. Cioè, per dire che il famoso naso di Cleopatra, che noi vediamo lungo, non perfetto, non è decisamente un nasino alla francese, era però molto apprezzato dai grandi, dai sovrani o comunque dagli uomini potenti dell'epoca. E se avesse avuto probabilmente un naso alla francese, un naso piccolino, non sarebbero successi. No, e adesso io entro con un aforisma che mi fa sempre nel cuore, che dice: la perfezione nell'arte non esiste. L'arte è un errore, quindi a volte sono proprio i difetti le cose ad attirarci, ecco, di più. I greci non sarebbero molto d'accordo con te, perché nell'epoca greca invece si andava in cerca di una perfezione fisica, tant'è che è proprio nell'epoca greca che si crea il canone di bellezza, che è stato, diciamo, inventato da Policleto di Argo, che era uno scultore, che ha cercato, insomma, è andato in giro a misurare uomini, a misurare varie misure, non so se anche quella misura è andata a misurare, ma non lo so, comunque è andato a misurare vari uomini cercando di ricercando le misure medie che sarebbero state poi quelle ideali. Le ha poi riproposte con una statua nella quale ha cercato di scolpire il corpo ideale, ma un corpo possibile, perché era la media di tutte le misure che era andato e a misurare nella realtà. Ci potrebbe essere uno che nella perfezione c'era quasi arrivato, insomma. Ecco, e il ruolo della donna era, non era proprio un ruolo importante nella società greca, era una società molto maschilista, difatti venivano relegate nel gineceo, e a Sparta per esempio i cosmetici erano vietati, e ad Atene la donna era apprezzata perché estremamente pallida. E questo perché? Perché le era vietato di uscire di casa, e quindi l'essere pallida voleva dire che obbediva al marito. Adesso però abbiamo parlato un po' tanto, quindi cerchiamo di mettere una canzone. Cosa dite? Volete qualcosa di... Parliamo di belle ragazze, cosa dite? Sì, come noi. Girls, come noi d'altronde. Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful girls. They only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. When they say it's over. See, it started at the park. you said chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get our sense wrong. Ooh, we didn't care, we made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mush up my mind, you have to get declined. Oh, Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. '99, watching movies all the time. Ooh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Ooh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine, you're one of a kind. But you mash up my mind, you have to get declined. Oh, Lord, my baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful. Abbiamo parlato di donne primitive, di donne egiziane, greche, e ora tocca alle donne romane. Con la conquista della Grecia nel 1406 avanti Cristo, Roma importa dalla Grecia anche la cura del corpo. Anche se la donna romana non è come la donna greca, la donna romana ha un po' più di libertà ed è un attimino più considerata rispetto alla donna greca. In epoca romana si cominciano a scrivere anche manuali di bellezza. Addirittura? Esatto, dove si consiglia l'uso della crema di Rodi, che era utilizzata anche già dai greci, per nascondere imperfezioni della pelle e di altri prodotti per colorare, per esempio, le labbra o scurire le ciglia e le sopracciglia. Utilizzano anche le creme depilatorie, le romane. Quindi forse è colpa loro se adesso ci tocca depilarci ogni sacrosanto mese. Comunque, tingevano i capelli di rosso acceso. Se erano scuri riuscivano già a tingerli di rosso acceso. Quindi il rosso era il colore privilegiato? Il rosso diventerà il colore privilegiato più avanti nel tempo. Comunque il rosso piaceva molto alla matrona romana. Non utilizzavano saponi per lavarsi, ma avevano altri detergenti, come per esempio la soda, la creta e la farina di fave. Ma funzionavano? Spero di sì. Si impanavano, insomma. A volte immergevano bene. Esatto. E romana è anche Poppea, che è entrata nella storia per i suoi famosi bagni di latte di asina, che rendevano la pelle bianca e liscia. Io non so se adesso avreste voglia di riprovare a fare un bagno nel latte di asina, comunque. Esatto. I risultati sono garantiti, si può fare anche quello. Tentando un nuocio. Un po' di cacao magari dentro. Cacao. Sarebbe meglio. Comunque le forme matronali erano pienotte, la matrona romana doveva rappresentare la ricchezza e la generosità del marito. Esatto, e comunque era la figura della ricchezza del marito, quindi più lei si vestiva riccamente, più era carica di trucco e gioielli, più aveva anche forme opulente, più voleva dire che il marito era ricco. Col Medioevo i cristiani... Col Medioevo si ribalta tutto. Si elimina tutto quello che era romano, tutto quello che era pagano e tutto quello che era superfluo, viene eliminato. Quindi anche tutte le spartosità, esatto, tutti i belletti, eccetera, eccetera. Il modello di bellezza diventa un modello nordico, la carnagione diventa chiara, i capelli biondi, gli occhi azzurri, quindi abbiamo Nadine che rispetta il canone. Esatto. Nata a tempo sbagliato. Esatto. E la morale cristiana condannava i costumi del Sì, ma anche del farsi bella, anche tutti i belletti, la cosmesi erano condannata perché donne di poco gusto o comunque donne. Sì, e poi era il loro posto. Era anche il simbolo del peccato di Eva, ecco, che non poteva non essere. Il corpo doveva essere acerbo ed esile per dimostrare la casta immaturità di bambina. Tant'è che all'epoca le donne venivano scelte vergini e adolescenti per essere sposate, e quindi questo è il motivo per cui il corpo doveva essere acerbo e con poco seno, eccetera, eccetera. Comunque c'era poco da mangiare durante il Medioevo, bisogna esatto, dire anche questo. È vero. E quindi era di necessità di tutto. Esattamente. Arrivando al Rinascimento la donna acquista un po' più di potere, abbiamo le donne in Italia soprattutto, abbiamo la donna angelicata di Dante e di tutto lo Stil Novo, e abbiamo anche una signora donna ammessa anche alle riunioni di corte, quindi acquista un po' più potere. Che, sì, esatto. In Italia soprattutto, da sapere che il primo trattato di cosmetologia occidentale è stato scritto da un italiano nel 1562, d'altronde l'Italia aveva porti come Venezia, che importavano dall'Oriente tutti i prodotti per poter essere poi tutti gli ingredienti da utilizzare per produrre prodotti di bellezza. Non sapevo che avessero il visaggista di corte. Praticamente. E sono anche i primi profumieri gli italiani a quell'epoca. Perché non si lavavano o perché... Perché producevano profumi, forse ecco, perché gli italiani non si lavavano dovevano sufficiente. Dovevano coprire l'odore delle pulci. La donna doveva possedere tre elementi bianchi, la carnagione, i denti e le mani, tre elementi rossi, le labbra, le guance e le unghie, e tre elementi neri, occhi, ciglia e sopracciglia. E questa mi pareva una cosa abbastanza interessante. Mettiamo una canzone, cosa dite? Ma sì, procediamo. Va bene, allora mettiamo la canzone che non può mancare se parliamo di bellezza. Gira il mondo, e gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole, bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il tuo uscino, calda come il pane, ombra sotto un fino, mentre da lontani stai come forever, lavoro tutto il giorno, e tutto il giorno penso a te, e quando il pane sporno va, lo tengo caldo per te. Dopo un anno di lavoro bella, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella amore, gioia primitiva, di saperti viva, vita piena, giorni e ore, batti cuore pura, dolce ma riposa, dura come sposa, mentre da lontani stai come forever. Cristallina, come una finestra che mi illumina il tuo uscino, calda come il pane. E qua il tempo scorre, scorre, siamo partiti dai primitivi e dagli egiziani e siamo già arrivati al 600-700, all'epoca barocca. L'epoca barocca vede un canone estetico totalmente contrario a quello che avevamo incontrato nel Medioevo. Quindi abbiamo forme femminili procaci, provocanti, scollature generose nei dipinti su viso, su scollature proprio, busti stretti in modo da sottolineare la vita, imbottiture per arrotondare i fianchi. È il periodo delle teste incipriate e appunto, come già detto, dei nei finti. Il viso è una tavolozza, non esiste, è una tavolozza in cui col bistro, lo stesso strumento che avevamo incontrato con gli egiziani, si ridisegnano occhi e sopracciglia, e il liquido rosso ha ben 12 sfumature per dare colore. Il rosso è in quest'epoca il colore decisamente dominante. Il 1800 vede un canone estetico un po' complicato, perché vede due ideali di donna che si intersecano. Anzitutto nell'Ottocento il velo diventa il soggetto dell'arte, quindi vengono in qualche modo riprese in considerazione anche le classi più povere della società. Abbiamo due ideali, l'ideale romantico e l'ideale della signora ricca e borghese. Nell'ideale romantico abbiamo un viso pallido che viene molto apprezzato e anche un viso un po' malato, un'espressione sofferta ed ispirata, attrae molto i poeti romantici. Come le nostre modelle di adesso. Praticamente sì, solo che all'epoca si faceva anche allora di necessità virtù, siccome era molto comune la tesi, questo era il motivo per cui probabilmente erano apprezzati. Gli toccava, nel senso che quello non passava al convento. Non c'era di meglio da mostrare. Esatto. Mentre la signora ricca borghese era una donna piena in casa, era il trionfo della carne come simbolo di benessere, e anche qui era anche simbolo del successo del marito. La donna era anche una donna mediamente istruita e ben valorizzata dalla società, portava i figli in villeggiatura nelle stazioni termali e si dedicava ad azioni di beneficenza, accompagnava il marito a teatro oppure ai ricevimenti, quindi era una donna attiva e in salute, a differenza dell'ideale romantico che avevamo appena visto. E poi arriviamo al Novecento, sconvolto da due guerre mondiali terribili e da dittature, soprattutto nel nostro paese e in Germania. Difatti negli anni Venti il canone estetico è molto particolare, ci sono uomini belli e virili perché devono andare a fare i soldati, certo, e donne floride e prosperose perché sono spose e madri dei soldati. Tipo Betty Boop? Sì, più o meno. In quell'anno, è interessante, le donne cominciano a tagliarsi i capelli, cominciano a vestirsi alla maschiaccia, in qualche perché modo devono fare le veci comunque delle esatto, che non ci sono. Esattamente. Dopo le guerre, insomma, c'è questo ideale di donna liana, non proprio dopo le guerre, in quel periodo, certo, perché dopo le guerre si cercherà la maggiorata, cioè la donna florida e fiorente che fa pensare a un futuro migliore. Quindi, perché esattamente. Difatti sono donne proposte molto dal cinema, che propone vamp platinate, propone brune appetitose e rosse incendiarie, tutte super dotate. Quasi per riempire un vuoto che c'era stato insomma in precedenza. Esattamente, gli uomini diventano duri, rubacuori e bei tenebrosi, che ancora adesso vanno abbastanza di moda, direi. Ecco. Sì, ci mancano però. Forse il rude c'è. Bello tenebroso. Appello agli uomini. E poi abbiamo il canone estetico dei nostri tempi, che è quello della modella. È un canone di una ragazza altissima, sottilissima, elegantissima, che però non riscuote lo stesso successo degli uomini, ma di questo ci parlerà più approfonditamente Jessica Marchese. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain, I'm so ashamed. Beautiful, no matter what they say. Un corpo odiato, vissuto come deforme. Un corpo da distruggere, assottigliare, offendere, annullare. Un corpo erroneamente percepito, che diviene il bersaglio di ogni insoddisfazione e senso di colpa. Un corpo che diviene lo strumento di comunicazione di ogni sofferto disagio e ogni paralizzazione, bisogno di attenzione, mai dichiarato, mai chiesto, ma sempre angosciato. Ho deciso di iniziare a trattare questo argomento citando una frase che illustra bene questo disagio quotidiano, l'anoressia. Il termine anoressia letteralmente significa senza appetito, ma in realtà questo malessere è molto più serio di una semplice inappetenza, in quanto può degenerare in una vera e propria repulsione ossessiva nei confronti del cibo. Questo è uno dei problemi di questo secolo, in maniera molto percepita soprattutto dalle adolescenti e dalle ragazze dai 12 ai 25 anni. Dobbiamo però fare una piccola parentesi, perché ora questo problema è vissuto come dalla ricerca di uno standard che ci propongono i mass media, con tutte queste con questi bombardamenti di donne bellissime, di donne magrissime e di donne che non hanno bisogno di chiedere niente perché sono talmente perfette nella loro magrezza, che invece questo è il problema che affligge, perché non tutti e non tutte possiamo arrivare a un concetto di bellezza così. Ognuna ha la propria possibilità nel suo aspetto di essere bella. Dobbiamo vedere una cosa. Questo problema riguarda il secolo che stiamo vivendo, però nella storia l'anoressia sta sempre molto presente. Ci sono vari tipi di anoressia. Possiamo, leggendo così tra le righe di un testo, leggevo che proprio l'irrequieta Sissi, quindi l'imperatrice d'Austria, molto probabilmente soffriva di anoressia nervosa, accompagnata da un'eccessiva frenetica attività fisica. Episodi di questo genere sono molto comuni, infatti leggendo alcune biografie del passato si nota che i protagonisti rispondono a criteri veramente simili a vari tipi di anoressia. Forse il caso più clamoroso è quello descritto dallo storico americano Bill, che nel suo testo La Santa Anoressia riconosce anche in Santa Caterina da Siena e quindi anche in altre sante medievali, nell'epoca medievali, la figura dell'anoressica. Sì, forse tanti erano anche così i sentimenti che spingevano una persona ad ammalarsi, che causavano questa malattia, o magari anche una cosa di devozione, perché poi esatto, il cibo è visto anche come qualcosa di terreno, di legato al mondo, di privarsi, di elevarsi, una privazione al cielo. Comunque non avevi bisogno di un contatto con la materia, e infatti era proprio di privarsi di una cosa per rendersi liberi. Solo che anche la stessa privazione del cibo in maniera così forte può invece di rendere liberi o comunque fare un'offerta che può essere capibile e concepibile, fare un'offerta, arrivare invece a stare male e a distruggere se stessi. Oppure tu menzionavi anche prima Sissi, forse era anche legato soprattutto perché è un fenomeno che colpisce, non dire, anche gli uomini, non è meno, però anche gli uomini, soprattutto le donne, e forse quelle che sentivano comunque di essere pressate, esatto, nella società, di avere comunque delle aspettative dagli altri a cui dovevano comunque arrivare, e magari questa sensazione di non riuscire causava un disagio psicologico. Ecco, il disagio psicologico, perché dobbiamo poi, come diceva appunto Rachele, parlava di queste modelle magrissime, il problema appunto di dover essere sempre sotto pressione comporta che la moda ha influito veramente molto. Le taglie una volta per le modelle erano la 40, la 42, oggi invece sfioriamo la 36, 38, vuol dire proprio che il corpo è talmente esile che le modelle tante volte hanno delle crisi, vengono da quanto certo magre sono. Infatti c'è stato proprio una situazione di due modelle brasiliane che probabilmente ricordate, morte proprio perché anoressiche. E da questo fenomeno però è scattato anche qualcosa, perché ci sono molte campagne adesso contro questo, questo problema, nel senso che anche la moda cerca di aiutare e di predisporre altri tipi di stereotipi. Però ora vediamo di fare un po' di pubblicità, perché è necessario. Prima della pausa stavamo parlando dell'anoressia. Bene, concludiamo questo argomento soffermandoci su una cosa importante. E, volevamo considerare una fascia d'età, quella diciamo più a rischio rispetto a questo problema. E, anche perché questa è una curiosità che fa riflettere. E infatti l'adolescente col tempo sviluppa una visione distorta per quanto riguarda i canoni di bellezza. Infatti considera normale questa magrezza così eccessiva da top model, soltanto soffermandosi su dei punti particolari, come per esempio non so, il polso, il braccio, ci si rende conto dell'assurdità di questi modelli che ci vengono continuamente proposti. Questa bellezza femminile distorta spinge molte donne a cercare di raggiungere un peso che non è realistico. La dottoressa Christine Davis a questo proposito scrive: la donna media è alta 1,65 m e pesa 66 kg, la modella è alta 1,80 m e pesa 50 kg. Il 95% di noi non raggiunge e non riesce a reggere al confronto e non ci riuscirà mai. Secondo me questa è una cosa che comunque conclude questa sorta di valutazione rispetto a questo problema, perché è una cosa talmente grave e talmente diciamo un problema che poi non si conclude in poco tempo, perché c'è una fase di consapevolezza della malattia, una fase in cui il malato capisce che è malato e quindi cerca di curarsi, una fase in cui cerca la determinazione per farlo e una fase di azione e poi di mantenimento e poi, sperando non succeda, di ricaduta. Quindi il tempo per poter poi risalire da questo problema è davvero di anni, anni e anni. Quindi volevamo anche fare un appello a voi ragazzi, insomma, apritevi, parlatene se sentite di essere soli in questo problema, perché la cosa migliore e più importante è quella di non chiudersi in se stessi, di soprattutto sottovalutare il problema. E ricordatevi che non è un modo per liberarsi, o comunque non sarete, anche se così magari è una cosa che si dice ma non si pensa, ma in effetti è vero, non è che diventate più belle, diventate più magre, ma diventate solo più tristi. Infatti, quindi mi raccomando ragazzi. La bellezza sta nella personalità delle persone. Esatto, e come dice Mika, big girls, you are beautiful. My phrases, watering a hole with the girls around and curves and all the right places. yourself to the butterfly lounge. Find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be calling you baby. No need to fancy fries. Since the world's in my fright, there's a water in a hole with the girls around and curves and all the right places. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful. Oh, you are beautiful. Move on down, find yourself a big lady. Big boy, come on around, my hands are gonna be baby. Big girls, feel the size, since the worst of my prices. Bene, diciamo che oltre all'anoressia dobbiamo soffermarci un attimo su un problema che può essere relativamente stretto come diciamo unico, la bulimia. Infatti fino a 15-20 anni fa diversi studi svolti a questo campo hanno dimostrato che la forma di anoressia più comune era quella restrittiva, cioè di non mangiare. Invece attualmente c'è questo fenomeno, detta sia appunto la bulimia, che prevede di mangiare e poi appunto vomitare il cibo. Allora, clinicamente la bulimia è denominata da episodi in cui il soggetto sente bisogno compulsivo di ingerire quantità di cibo spropositate, corredati però da spiacevole sensazione di non essere capace di controllare il proprio comportamento, quindi il mangiare compulsivo. Ecco, questo di solito è diciamo uno delle malattie che ora colpisce una generazione di sesso femminile dai 12 ai 14 anni, ma anche di età più matura, quindi dai 18 ai 20, e tante volte può essere preso come una sorta di legato al giorno d'oggi, quindi legato allo stress, legato alla vita frenetica, legato a non sentirsi adeguate alle cose che si fanno nella vita. Secondo me è fame d'affetto comunque in questo caso. È anche c'è una mancanza, di affetto, di attenzioni, e quindi uno si riversa nel cibo, perché la pancia comunque è il posto dove c'è il deposito delle nostre emozioni. E ci sentiamo pieni per poi invece sentirsi costretti invece a ripudiare questo cibo, e quindi poi la sofferenza è doppia. Difatti se ci pensi è un periodo, questo nostro periodo storico, in cui comunque manca un contatto con la gente a livello proprio umano, affettivo, di tutti i giorni, e guarda caso è anche il periodo storico in cui probabilmente ci sono più disagi rispetto al cibo, anoressia, bulimia e tutte queste cose qui. E forse deriva anche da una certa ricchezza. Sì, perché di cibo adesso ne abbiamo, quindi esatto. Il mangiare, il dovere... O il non mangiare è una scelta. Infatti, è una scelta. Ora però passiamo a un altro argomento dopo questo brano musicale che vi proponiamo. Parliamo di bellezza però sana, e trovare la bellezza nelle cose della vita, nelle terme, e dopo ve ne parliamo. Security away. solito, quando si parla di terme, si pensa sempre a qualcosa di costoso. Vi voglio dimostrare invece come si possono fare delle terme e tutti i trattamenti in maniera economica, anzi, grazie, senza spendere niente. Vi porto in Toscana, più precisamente a Saturnia, nella bellissima Maremma di Grosseto. Beh, wow, quindi anche qua vicino non è che dobbiamo fare chilometri per poter... Insomma, qualche chilometro, vabbè, insomma, d'accordo, ma... Però, insomma, in autostop... In autostop così non si spende proprio niente. E così non si arriva neanche proprio a destinazione. No, dai, siamo ottimisti. Allora, qui a Saturnia si trovano degli stabilimenti simili a quelli di Salso Maggiore Terme o quelli di Abano Terme. Però c'è una località creata da un ruscello che si chiama il Gorello, con delle cascatelle in cui ci sono delle vasche naturali, cioè delle cascatelle in cui ci si può immergersi all'interno di vasche dove ci sono i famosi fanghi a base di zolfo. Quindi l'odore non sarà proprio il migliore che possiamo sentire, però la pelle diventerà liscissima. E la cosa più bella è che l'acqua è a 37 gradi costanti, quindi possiamo essere circondati dalla neve, dal gelo, dalla brina, ma all'interno stare benissimo e soprattutto con un cielo di stelle sopra la testa. Ma ho una domanda stupida, come d'altronde non è che potrebbe essere diversamente. Ma allora tu sei immersa nell'acqua, cioè, fino al collo, però la testa sta fuori, il naso non si congela? No, assolutamente, ma comunque la testa è meglio che stia fuori perché così le idee si rinfrescano. Esattamente, le teste calde... Non ci piacciono, non vanno mai bene. Allora, vi spiego, molti ragazzi partono anche in serata, quindi si può fare una gita in giornata. Si può passare appunto una notte alternativa partendo, che ne so, dopo cena. La strada appunto non è proprio così poca, però magari alternandosi nella guida queste 6-7 ore di auto possono passare abbastanza velocemente. Ecco, poi così... in compagnia di Lipstick Lagoon magari. Ah no, quindi, non siamo fuori zona. Quindi sai. Ma no, con la registrazione. Ma adesso tutti sempre... i nostri ascoltatori partiranno in macchina e andranno verso questo. Comunque, magari si può passare una bella serata facendo una cenetta a base di salumi, formaggi, deliziosi vini e poi andiamo a depurarci in queste vasche. E, vi dico, ci vorranno appunto 6-7 ore per andare, 6-7 ore per tornare, sì, però... proprio dietro l'angolo, niente. Però pensate a che romantico weekend o che romantica notte. Cioè, ragazzi, se volete fare bella figura con noi, proponeteci questa cosa e non spenderete nulla. Ma il successo è assolutamente garantito. Ecco Nadine, noi siamo fregate, noi lì non ci possiamo andare. Perché Rachele? Perché noi non abbiamo un compagno qua, queste parole hanno solo di romanticismo. Appello. Ma no, magari avete qualche ammiratore segreto, vero, tra i nostri ascoltatori, che potrebbe proporvi la cosa, no? Mai saremo a vedere. Non parliamo più, lasciamo le cose. Comunque, la pelle puzzerà un po' di zolfo, quindi alla fine, anche se ci andiamo... Non si conclude. Alla fine, perché dopo 6 ore di viaggio, il bagno termale... Uno è esausto dopo la fine. Però è meglio allora del latte di asina a sto punto, insomma. Bene, dai. Comunque, appunto, la pelle puzzerà, però alla fine sarà liscia, bella e soprattutto farà benissimo per la cellulite, perché i fanghi riscaldano e fanno drenare. Ecco, quindi, questo, quindi mangiando il salume prima e il formaggio esatto, e cosa, poi lì e una bella blocca, eliminiamo tutti i problemi, tornate uguali, perché insomma la bilancia alla fine è meno. Benissimo. E allora, cosa dite, partiamo? Io l'accendo. Accendiamo? Bene. Facciamo questa avventura. Intanto però accendiamo un po' di musica e quindi lanciamo la prossima canzone. I'm about to almost 50 miles, and I wish I could free you of the hurt and the pain. But the answer is simple, he's the one to blame. Quindi bene, giungiamo al concreto. Cosa fare per essere belle? Allora, tre consigli così, rapidi e veloci. Mangiare in modo equilibrato, dormire a sufficienza, ma soprattutto, ed è la cosa su cui bisogna puntare di più, be happy, lo dico anche in inglese, cioè l'essere felici. Quindi la bellezza esterna è sinonimo di benessere psicofisico. Ok? Allora, direbbe la mia amica di università, la Silvia, questa è tutta aria fritta, cioè nel senso stai dicendo cose ovvie, quindi partiamo al, passiamo, cioè alla cosa, alle cose un attimino più concrete. Non serve spendere molto, quindi continuiamo sulla linea della Jessica, per preparare per esempio una bellissima maschera di bellezza. Siete a casa, siete stufe, non sapete cosa fare, avete un po' di brufoli, non c'è problema. Abbiamo la soluzione a tutto. Eliminiamo tutto. Allora, ideale per la cura dei brufoli, la maschera stringente. Basta mezzo limone spremuto e mezzo vasetto di yogurt magro, quindi quello yogurt che fa schifo se lo mangiate da solo, quindi perché non ha gusto. Mezzo vasetto di yogurt magro, aspetta che scrivo perché mi interessa molto questa cosa. Annotate, facilissima anche la preparazione, mescolare in una scodellina lo yogurt magro e il limone, applicare la maschera e lasciare riposare per 20-25 minuti. Dopodiché risciacquare il viso con acqua tiepida, guardatevi allo specchio, specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sono io. Benissimo. Sempre che non si rompa lo specchio, altrimenti sono 7 anni. No, mamma mia, speriamo di non avere sfortuna. No dai, a parte gli scherzi, effettivamente queste sono maschere che abbiamo provato e possono avere dei risultati comunque molto interessanti, valutando anche che sono molto low cost. Esatto, quindi cosa che andare al centro estetico e spendere chissà cosa per, facciamo qualcosa di fai da te e sempre con ingredienti. Però naturali. Essendo felici, altrimenti non funziona. A parte questo, passiamo anche ad stavo sfogliando così nella preparazione di questa puntata, un libro su alimentazione naturale, alimenti super. Quindi adesso volevo così darvi una piccola idea su i 20 alimenti che non devono mai mancare sulla vostra tavola. Ok. Allora, partiamo. Avete carta e penna? Inserite nelle vostre ricette future questi ingredienti in qualche modo, non troppi perché alcuni causano diciamo degli odori non molto interessanti. Allora, beh, aglio, broccoli, carota, cicoria, vai piano, cipolla, aglio, broccoli, carota, cicoria, cipolla, sì. Germogli di soia che sono molto buoni e interessanti da mescolare con alcune insalate, mirtillo nero per le vostre torte, olio extravergine di oliva sempre come condimento crudo e poi la sera per depurarsi il tè verde che se non vi piace diciamo naturale, vedi, magari aromatizzato con qualche cosa strana. Nadia, insomma, saremo bellissime però non avremo alcuna vita sociale. L'aglio, la cicoria che gonfia la pancia, l'alito pestilente, il tè verde che ci fa andare in bagno ogni 3 secondi, il mirtillo che ho come l'impressione che colori anche la bocca di quel bel torniamo insomma in epoca qual era, quando è che andava di moda il rosso Il barocco no. Andava allora, colgo al volo il lancio della Jessica per passare diciamo in atmosfera più sociale, cioè se vogliamo uscire, ecco, e non ci sentiamo a nostro agio con il nostro corpo, diciamo mamma mia mi guardo non so cosa mettere. Allora, per ogni corpo, per ogni costituzione c'è un abbigliamento giusto. Sentiamo. Allora, per esempio, se siete longiline, non sono io, quello che è consigliato a livello di abbigliamento sono balze e volant, quindi per rendere un attimino il corpo più pieno. La zona hot, visto che magari manca un po' di seno, manca un po' di sedere, è la schiena da evidenziare, quindi scollature profonde, non davanti ma dietro, e poi grandi stampe colorate che riempiano. Di moda, e se vi piacciono, nella parte bassa pantaloni skinny, che sono sempre insomma un accessorio. Quindi okay, da domani la Nadine sarà vestita sempre e solo così, con la schiena nuda, anche a 10, anche se va freddo, schiena nuda. Allora, se invece diciamo la vostra parte più piena è la parte superiore, quindi del corpo, mentre gambe e fianchi sono minuti, dovete sottolineare appunto i fianchi. abbinando camicie sobrie, maglie sobrie, a gonne mini o spacchi profondi. Una camicia hawaiana può andar bene come sobrietà, ma non so a livello sociale quanto successo possa rispondere, però ci proviamo. Si può fare tutto. Infine, se il vostro, se la vostra così morfologia è a clessidra, quindi con curve abbondanti nella zona seno e bacino, dovete giocare con le curve. Qua quindi siamo Beyoncé, siamo insomma grandi, grandi nomi. Esatto. Più o meno, insomma. Dove le curve sono messe al posto giusto. Allora, qua la silhouette è molto sexy femminile, quindi assolutamente contraria a quella che insomma vediamo sfilare sulle passerelle più famose. E in realtà semi e bacino abbondante, alla fine è una è un, assolutamente una silhouette molto sexy. Come sottolinearla? Stringendo la vita con cinturine, portando gonne a vita alta che arrivino fino al ginocchio e scollature profonde, quindi insomma la parte comunque del décolleté è nel vostro caso un punto, una zona su cui puntare. L'importante è non nascondere la curva dei fianchi, che è veramente il punto forte di questo fisico. E non dimenticate, pensiamo anche alle scarpe, tacchi o zeppe. Ok, questi sono solamente alcuni consigli veloci, però volevo concludere così con un messaggio, con una frase che mi è sempre rimasta impressa riguardo a come ci si presenta. Non è importante ciò che indossate, ma è come lo indossate. Quindi l'eleganza e la bellezza deriva dal vostro portamento e dalla vostra personalità. Mi raccomando, con questo consiglio in mente, sentitevi belle. Without her trying, she's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll stay. Ed ora, dopo tutti questi consigli di bellezza, vi proponiamo la formula della bellezza universale, elaborata direttamente da Lella Costa. O troppo alta o troppo bassa, le dici magra, si sente grassa, sono tutte bionde, lei è corvina, vanno le brune, diventa albina, troppo educata, piacciono volgari, troppo scosciata per le comari. Sei troppo colta, è preparata, intelligente e qualificata, il maschio è fragile, non l'umiliare, se sei più brava, non lo ostentare, sei solo bella, non sai far niente, guarda che oggi l'uomo è esigente, l'aspetto fisico più non gli basta, scita il Veroni e butta la pasta. Troppi labroni non vanno giù, troppo quel seno, buttalo giù, sbianca la pelle, che sia di luna, se non ti abbronzi non sei nessuna, l'estate prossima con il cotone tornano di moda i fianchi a pallone, ma per l'inverno la moda detta ci vogliono forme da scolaretta, piedi piccini, occhi cangianti, seni minuscoli, anzi giganti, Alice assaggia, piluca tracanna, prima i 2 metri, poi è una spanna, Alice pensa, poi si arrabatta, niente da fare, è sempre inadatta, Alice morde, rosicchia, divora, ma non si arrende, ci riprova ancora, Alice piange, trangugia, digiuna, e tutte noi, è se stessa, è nessuna. E E adesso è ormai un po' di tempo che noi parliamo di bellezza, abbiamo detto la nostra, abbiamo condiviso con voi il nostro pensiero e le nostre emozioni su questo argomento, ma voi potete fare lo stesso con noi, potete scriverci a radio@radiosandona.it, mi raccomando Radio Sandona senza l'accento sull'A, oppure potete cercarci su Facebook Lipstick Lagoon, che si scrive Lipstick LIPSTICK e Laguna LAGOON, e dovreste trovarci e quindi potete tranquillamente darci la vostra opinione adesso, e anche proporci eventualmente nuovi argomenti assolutamente da trattare, quelli che vi piacciono di più. E ora però vi lasciamo a un aforisma di Jessica: lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia. Bene, direi che dice tutto. E adesso noi possiamo partire per le terme. Bene, ciao, andiamo, guido io allora. Ah beh, a cavallo. Io passo la lame. No, formaggio.